Reno, Beno, yo, 2008. Lascia i pazzi, non puoi contarci, non puoi contarci. Noi siamo in tanti, noi siamo i pazzi più scomodi, quelli con i gesti più ignobili. Lascia i pazzi, non puoi contarci, non puoi contarci. Noi siamo in tanti, noi siamo i pazzi più scomodi. Spieghiamo in faccia come sui microfoni. Lascia stare perché tanto non mi va di bruciare anche sta possibilità. Lascia stare, non ho pace da quando ci sei. Ho le giornate più nere da sostenere, altro che 12 fatiche, mo solo 7 camicie. Ed ora puzzano, meglio in ammollo e poi in lavatrice. No, no, il bisogno di sapere che dice, che pensa. Ho la benza, un barattolo di vernice. So che un bel giorno partirò via di testa. Perlomeno adesso sai quanto ti resta. In quel bel giorno qui partirò di testa. Vesti nero è il tema della mia festa. Ho una bestia nera in corpo e combino idee che si fondono e formano un aborto. Lascia stare, mi conforto in parte con gli altri pazzi rispondendo alle mie domande. Lascia i pazzi, non puoi contarci, non puoi contarci. Noi siamo in tanti, noi siamo i pazzi più scomodi, quelli con i gesti più ignobili. Lascia i pazzi, non puoi contarci, non puoi contarci. Noi siamo in tanti, noi siamo i pazzi più scomodi. Spieghiamo in faccia come sui microfoni. Siamo pazzi ragazzi coi razzi in testa. Pazzie che suonano tipo tuoni alla tempesta. Pronti per la festa pure quando c'è sta nada. Quel musica decore che esplode da sta contrada. Ci purifichiamo con i ritmi della strada. Mi intossico con droghe schivando colpi di spada. Siamo tonici, sempre pronti se c'è vara onda. Siamo magici con pochi ingredienti, facciamo una bomba. Siamo stupidi, tanto l'inverno sempre ritorna. Pazzoidi, giriamo schizzati e facciamo le corna. Siamo fuori di brutto, specie se fuori c'è brutto. Se c'è solo mio amore, io ti saluto con un rutto. Sono un pazzo malato, schizzato, già primavera. Non un pezzo di merda rubato dalla riviera. Se pensi che sia strani, io me ne fotto il cazzo. E a voce alta, io mi proclamo pazzo. Lascia i pazzi, non puoi contarci, non puoi contarci. Noi siamo in tanti, noi siamo i pazzi più scomodi, quelli con i gesti più ignobili. Lascia i pazzi, non puoi contarci, non puoi contarci. Noi siamo in tanti, noi siamo i pazzi più scomodi. Spieghiamo in faccia come sui microfoni. Lascia i pazzi, non puoi contarci, non puoi contarci. Noi siamo in tanti, noi siamo i pazzi più scomodi, quelli con i gesti più ignobili. Lascia i pazzi, non puoi contarci, non puoi contarci. Noi siamo in tanti, noi siamo i pazzi più scomodi. Spieghiamo in faccia come sui microfoni. Per aver fatto il mixtape culo con Binello, le voci di quel...